da 510 e poi per andare su di lì bisogna vedere, di lì bisogna avere cosa fare, perché cioè non voglio spendere soldi inutilmente, mi segui, li vorrei spendere una volta e basta, ma per andare sopra i 400, capito? Questa è proprio sorda, sorda, sorda, non riceve niente, niente, niente. Eppure sto usando 22 metri, anche qua ho 22 metri di reggi 213, cioè non è l'RG 58, che è cavo a bassa perdita, non lo so. Banda aeronautica la prendo bene, prendo molto bene la banda marina, ci mancherebbe, ce li ho vicini di casa, però l'altra roba zero, zero, zero, zero. Guarda, io ho un'antenna che non ho mai installato, io ho il radiocomiometro, l'avevo preso da un amico, però quello appunto non ha per le bande HF, è un radiocomiometro marino, quelli che si usavano prima per darti la rotta, anziché usare il GPS, e tu puntavi con queste antenne particolari, c'è una specie di mussola che ruota e ti dà la direzione, c'è un indicatore di segnale, e ti orienti in quella direzione lì, dove c'è il segnale massimo, tu prosegui, se capiti a casa già te lo faccio vedere. Non so se te l'ho fatto vedere in fotografia, comunque un bellissimo oggetto, costava all'epoca più di 7 milioni, quasi 8 milioni costava quella lì. E poi mi hanno dato da un amico, si può dire me l'ha quasi regalata, un'antenna per radiocomiometri, però su altre bande, per le bande V e U, non so se le hai viste, che c'erano nelle navi, si usavano, è un'antenna, fai conto, c'è presente i dipoli che si usano le radio private, quelli verticali, le collineari, dai, questo ne ha 4, a 360 gradi, un'antenna della Simrad giapponese, costava, se ti dico cosa costa tu non ci credi, c'è una tecnologia da paura, e questo qua all'interno c'è tutto un sistema elettronico che lavora su 360 gradi e sceglie quel dipolo in una direzione dove c'è il miglior segnale e ti amplifica quell'antenna lì, è come che c'è quattro antenne accoppiate e questo lavora così, un sistema, una tecnologia allucinante. Lo si utilizzavano le navi, un po' tipo quelle antenne, le hai mai viste tu quelle antenne che ci sono nei camper per vedere la televisione prima, l'analogico, ci avevano tanti dipoli tutti intorno, questo è il sistema, è quello, però è un'antenna abbastanza pesante, tutta materiale coso, marino, resistente al marino, tutta in alluminio, con rivestimenti allucinanti, ed è un'antenna giapponese, Simrad, insieme al ricevitore, e con le antenne, se si riesce a trovare su internet qualcosa, e con quella ti risolvi i grossi problemi, perché è un'antenna omnidirezionale e ha dei guadagni molto elevati, pur essendo, sembrerebbe un'antenna semplice, eppure funziona su 360 gradi, senza bisogno di avere rotore. Sì, ho capito, Roberto. Adesso vedo un pochino cosa fare, adesso mi voglio fare una prova con queste antenne, diciamo della TV, queste antenne uniche, queste longa ritma, come si chiama, prova a prendermi, intanto costano poco, costano 13 euro, prova a prendergliene due e prova a copiare, le metto nel traliccio dove c'ho la Grazioli e ne provo a mettere una a nord e una a sud, vedo un po' cosa riesco a togliere, perché c'è anche una modifica, ci sono anche le misure per le modifiche, quindi provo a fare una cosa del genere, vediamo un po' cosa mettiamo fuori, è sempre esperienza, poi Marana ci ho buttato 30 euro, però se non lo faccio non lo so. Allora, con le antenne logaritmiche o logoperiodiche dette volgarmente, hanno una larghezza di banda molto ampia, magari ci sono antenne che rendono di più delle direttive, rendono di più, però c'ha di buono che sono molto larghe come larghezza di banda, cioè hanno una frequenza molto ampia, puoi fare tanti lavori, l'unico problema è che sono normalmente a 75 ohm e lì magari in ricezione non te ne accorgi molto, però se magari devi usare per altre cose c'è un disaccoppiamento di impedenza, però se riesci a accoppiarle bene quelle antenne lì con degli accordatori, no, come si chiama, degli adattatori, io l'avevo fatto tanti anni fa, avevo fatto una collineare sovrapposta, due colline aree sovrapposte, c'avevo un progetto quando avevo ancora la radio, erano delle colline aree dei ripoli chiusi, infatti uno sopra l'altro sovrapposto, avevo costruito gli accoppiatori, c'avevo da una rivista, l'avevo fatto. Poi proprio l'altro giorno me li hanno chiesti un tipo di fuori, un greco, perché gli ho detto che io ce l'avevo i progetti, ci siamo sentiti, abbiamo l'amicizia, Jimmy Dimitris, non so se lo conosci, questo costruisce e vende apparecchiature eccetera, però stava cercando quel progetto lì, gliel'avevo dato a lui, io l'avevo fatto a 2 elementi, però lui lo voleva fare a 4 elementi, e se riesci a fare gli accoppiamenti giusti ti togli dalle grandissime soddisfazioni, perché qualcuno l'ha fatto, io conosco gente, li metteva a 45 gradi, tu li stai mettendo avanti e dietro, uno al contrario dell'altro, così mi dici? Sì, positivo. Allora, la verità, volevo farla a 4 elementi, allora volevo farla a 4 elementi, volevo metterne, come tutto, come tutto, una sopra l'altra, una 60 centimetri, una sopra l'altra, e metterne una a nord e una a sud, cioè fare 2 a nord e 2 a sud. Però voglio provare adesso con una a nord e una a sud, distanziate una dall'altra, 50, intorno a una cinquantina di centimetri da una all'altra, con delle prolunghette che ho per, diciamo, con dell'alluminio piatto, con del triangolare piatto che ho, distanziarle così, provarle con un accoppiatore, e mandarle anche una calata con delle RG 58 giusto per vedere se succede qualcosa. Mi segui? Allora, come stai dicendo tu, in ricezione non hai grossi vantaggi, perché ti dà troppa direzionalità, ti stringe il coso, l'apertura, il diagramma di apertura te lo stringe troppo. Io consiglio, perché lo sto facendo anche io, ti prendi il palo, diciamo, c'è il palo, gli fai una T, te ne metti una a sinistra e una a destra, naturalmente queste misure vanno calibrate, diciamo, in ricezione fino a un certo punto, perché diciamo non c'hai grossi problemi, però se le metti sovrapposte non hai grossissimi vantaggi, a quel punto è mettere una a sinistra e una a destra sullo stesso piano orizzontale, e vedi che se riesci a copiarla, c'è gente che ne mette anche 4, doppie, se le mette doppie, 2 da una parte e 2 dall'altra, oppure sovrapposte, 2 da una parte e 2 dall'altra, così sì che c'hai delle rese importanti, perché c'è un campo, come si chiama, un'apertura, un diagramma d'apertura molto largo, per cui se quella fa 40 gradi da una parte più 40 dall'altra parte, come ne hai 80 gradi, te li sommi, c'è un grandissimo vantaggio. Il problema, bisogna stare molto attenti agli accoppiatori, se c'hai tu il nano, come si chiama, l'analizzatore d'antenna, ce l'hai? Il nano Volea, VMA, come si chiama? No, non ce l'ho. No, ma a me mi serve solo per la ricezione, io non devo trasmettere da nessuna parte, non, per la banda, per il PRM o cosa è, o l'X30, non mi interessa, con un veicolarino, c'ero quello, a me per la trasmissione non mi interessa, mi segue, a me serve per il ICR 7000, per il ricevitore, è una cosa che devo fare per la ricezione io. Anche farle, non lo so, a modello sullo stesso palo, a modello ventaglio, a mettergliene 4, 6, mi segui cosa voglio fare? Anche fargli una specie di margherita, mettergliene o 4, o 6, o 5, per coprire tutti i 360 gradi, mi segui? Sì, ho capito. A quel punto le metti 2 frontali e 2 posteriori. Guarda, devo cercarti qualche progettino, c'è roba semplice, tra l'altro tu le antenne poi ce le hai già pronte, tu naturalmente devi avere che frequenza devi utilizzare, ma già trovo qualcosa, perché ho dei progettini semplici, perché una cosa mettetele a costruire, te le disarrabbiate, è un po' laborioso il lavoro, perché c'è anche progetti di cosa, devi calcolare in base alla frequenza di lavoro, ti dà le distanze degli elementi, la grandezza, eccetera, eccetera. Ma con quelle, come si chiama, queste logaritmiche, quelle sono abbastanza larghe come manda di lavoro, per cui riesci ad adattarti bene. Se ne metti 2, ma ne metti 2 davanti in una direzione, una a destra e una a sinistra, a una misura calibrata, e le altre 2 te le metti dietro posteriormente, ti fai 360, perché davanti lavori 100 più 100, almeno 120 più 120 davanti, e più 120 più 100, ma riperdi qualcosa laterale naturalmente, però già titoli qualche soddisfazione. Sì, io credo che la banda VHF me la comprano, VU me la comprano alla grande, ma anche intorno ai 500 600 mega, cosa pensi? Non ho capito, 500? Anche intorno ai 500, anche a partire dai 430 ad arrivare ai 700, ci arriva, cioè la copre con l'antenna lì. Sì, sì, sì, sì, sicuramente. Anche più in basso dei 400 scende. Vero, anche la banda aeronautica secondo me la copre. Non dico che la 27 non ce l'ha fatta, ma per tutta la 27 non mi interessa. Io anche, cioè, però secondo me dai 118, dai 118 ai 700 li copre con l'antenna lì. Sì, magari è il punto critico nel basso, però a 100, diciamo dai 250 in su lavori abbastanza bene, poi sotto più scendi e più prende naturalmente, però meglio di un pezzo di filo sicuramente già è. No, ma sono antenne molto performanti quelle lì, fanno diversi lavori, perché poi li puoi mettere in orizzontale e in verticale, anche abbastanza, come si chiama, l'utilizzo è abbastanza semplice, che puoi piegare. Addirittura noi facevamo il lavoro con quelle logaritmiche per farti la polarizzazione orizzontale e verticale senza neanche capovolgere l'antenna, piegavi i radialini posteriori e ti facevi la doppia polarizzazione. Parliamo in TV però, no, non in radio, in radio la maggior parte sono tutti in verticale le polarizzazioni, però con il, quando c'eravamo le televisioni, quando eravamo giù al mare in coso, mettevamo, perché per la polarizzazione c'era, per dire, siccome quella lì è larga banda, faceva sia le UHF che le VHF, quando vedevamo la, come si chiama, la TV, anziché usare una per il primo e una per il secondo, adesso vabbè è tutto UHF le TV, ma prima c'erano due bande, la banda VHF che c'era la RAI e UHF c'erano le private. La polarizzazione orizzontale, mettendo l'antenna in verticale, piegandoli i riflettori, quelli di dietro glieli piegavi e li faceva anche l'altra polarizzazione, e funzionavano discretamente. Naturalmente non è come una direttiva col pannello dietro eccetera, però per quello che era fatto andava più che bene. Riprendi, ti chiamavano l'antenna a coso, a pettine, perché era un, cioè, sembrava una cosa di pesce. A spina di pesce, no, provo a farla, provo, intanto sono tutte quante esperimenti che bisogna fare, non è che accendi la radio e vai, perché alla fine sì, le compri, va bene, ci fa, però perché mi piace anche prendere, informarmi e mettermi a farle, perché mi piace, perché mi piace fare queste cose. No, almeno riesco, magari se riesco a togliere qualche soddisfazione in più, questo ricevitore è meglio, perché c'ho questa discona, addirittura aveva copiato con un T la discona con l'X30, ma avevo grosse perdite, anche se l'avevo fatto, anche se c'era il cavo buono, e c'erano molte perdite. In quel modo invece cosa faccio? Gli faccio una bella scatoletta, gli faccio una scatola, gli faccio entrare tutte le quattro polarizzazioni delle antenne, le unisco e gli faccio un'unica calata. Se anche poi si può provare anche una cosa del genere, oppure con degli sdoppiatori, oppure con degli sdoppiatori, o addirittura anche ci sono degli amplificatori che magari possono funzionare, che magari possono funzionare per quelli non sono buonissimi, sono della Fraccaro, come si chiama, però provo con quelli lì, una scatoletta li prendo e poi li faccio uscire il PL, magari va. Allora, una cosa importante, le antenne, se fai gli accoppiamenti, devono essere identiche, non puoi mettere due antenne diverse, perché sennò fai solo danno, c'è un peggioramento, non un miglioramento, non puoi mettere una Grand Prime con una Yagi o eccetera, o viceversa, devono essere due antenne identiche, perché sennò c'è un disaccoppiamento. Tieni presente che quelle antenne, anche se tu mi dici la sto utilizzando in ricezione, diciamo, i problemi sono minori rispetto a una trasmissione, sono antenne nate per 75 ohm, non 52 ohm, perché se metti il discone, vedete che impedenza c'ha, io non me lo ricordo, c'era 52, però le antenne, quelle cosiddette logaritmiche, sono tutte a 75 ohm, almeno quelle che costruiscono normalmente in commercio. Poi occhio a quegli amplificatori che ti stai dicendo tu, quegli amplificatori hanno dei filtri passabanda, cioè passa passato, cioè ti tagliano per delle frequenze oltre i 400 te li tagliano, e completamente hanno dei filtri per la telefonia eccetera eccetera, per cui c'hai solo degli svantaggi, ti amplificano solo quella banda che gli interessa, la banda per dire TV eccetera, quelli fra carro, MS eccetera eccetera, ci sono tanti di marchi che li fanno, per cui lascia perdere quelli per amplificatori, ci vorrebbe un amplificatore larga banda di quelli di vecchissima generazione, e adesso penso sono anche un po' difficili trovarli, magari se c'è qualcosa di vecchio magari si riesce a fare qualcosa, però non è detto che c'è dei miglioramenti, magari ti amplifica anche il rumore, se c'è del rumore te lo amplifica, ti amplifica tutto quello che c'è, perché quelli per la TV adesso hanno i filtri LTE per i coso, per i cellulari, sono proprio tagliati e calibrati, per cui lasciali perdere, è meglio non mettere niente a quel punto, lasciare stare le antenne due uguali, le devi mettere, però non puoi mettere una Grand Play con un'altra configurazione dell'antenna, non esiste il discorso, metti le due queste qua logaritme una a fianco all'altro, possibilmente calcolando le distanze, perché vanno anche rispettate le distanze, e così ci avrai sicuramente una resa molto migliore che averne una soltanto. Bisogna fare prove degli esperimenti, andare su una stazione magari debole e ti fai le prove così, e vedi gli accoppiamenti, puoi provare con degli ispezioni di cavo di diverse misure e vedi di costruirti anche un accoppiatore. Io li facevo così perché per dire usavo uno spezzone di RG11 da 75 ohm oppure un RG58, l'accoppiavi, ti regolavi le cose e vedevi che bastano fesserie e c'hai dei guadagni di miglioramenti che neanche uno si immagina. Riprendi. Sì, no, io intendevo quelli, diciamo, che metti quattro antenne, diciamo quattro in e un'uscita, mi segui? Quattro in e un'uscita, anche quelli della Facarro, hanno anche quelli lì dei filtri dentro, cosa dici? O quelli a morsetto, per unire i cavi, per non stare a saldare, a fare la scatoletta, perché ci sono quelli anche a morsetto per pulire i cavi dell'antenna e poi hai un'unica calata. Mi stai seguendo? Sì, allora ti vedete quelli, non so se tu stai parlando dei partitori di antenna per mettere anche saldare cose, li metti così, sono dei partitori a bassa perdita, però noi stiamo parlando di una cosa diversa, accoppiare due antenne è un'altra cosa, non stiamo accoppiando un'unica antenna a tre utenze, a tre cavi, quella è un'altra cosa, tu devi accoppiare due antenne e ci vuole un altro sistema. Sì, allora, vabbè, forse mi sono spiegato male. Metto due antenne e le collego in parallelo, mi segui, unisco due poli caldi e il polo freddo e scendo giù alla radio, ci siamo fin qua. Non è proprio così, perché non è detto che migliori, addirittura puoi anche peggiorare il discorso, bisogna fare le cose calibrate, perché poi si possono sommare le impedenze e viene per dire, da 75 te lo porti a 150 e disaccoppi vari anche il ricevitore, perché il ricevitore normalmente è a 75 ohm o 300 ohm, dipende dal ricevitore, perché ci sono quelli che hanno l'ingresso a 300 ohm o a 75 ohm, bisogna fare delle prove, non è detto che migliori mettendo due antenne e collegandole così come stai dicendo tu. Ho capito. Vabbè, quindi mi devo prima informare come accoppiare le antenne e allora poi lo farò, perché io volevo fare una cosa del genere, prendere, sì, perché poi è vero, poi prendi e sommi le impedenze, è vero, non ci avevo pensato a questo. Certo che sì, però ti ripeto, io ci devo avere qualche cosa semplice, non parliamo di cose difficili, per fare proprio gli accoppiatori. Io li avevo fatti utilizzando degli spezzoni in base alla frequenza di lavoro, più ho utilizzato degli spezzoni con lunghezze specifiche e delle impedenze specifiche. Per cui prendi un pezzo di RG, anche cavo l'antenna SATI che ha 75 ohm, lo tagli e lo unisci a un pezzo di RG58 che ha l'impedenza 52 e riesci a trovare un adattamento così, si poteva fare, magari mettendo anche, ci sono tanti sistemi, adesso non me li ricordo, però c'ho qualche progettino vecchio, di vecchia data, io c'ho il libro delle antenne da diversi, però c'erano anche di queste riviste dell'epoca che si parlava un po' di antenne e cose del genere, ci sono dei sistemi di accoppiamento, eccetera eccetera, abbastanza semplice senza fare cose complicate con balum e cose del genere. Va bene, riprendi tu. Sì, io il balum l'ho fatto 1v1, lo sto usando nell'ICOM, per un'antenna per una long drive, e ho messo 30 metri di cavo. Ho dovuto installare la V invertita, per non so quanto ho in trasmissione con quel pezzo di filo, 1 e 2 su tutte le bande. Guarda, vieni a casa e lo vedi, misurato a rosmetro, 1 e 2 su tutte le bande, è assurdo, mi arrivano in HF 7000, 40, 80 metri, mi arrivano 9,40, 9,50, 9,30. No, trovalo bene con il sistema di antenne, ma ce ne sono, dipende, tutto dipende anche dalle zone, perché magari tu c'hai un'antenna, una tipologia di antenna che va benissimo in una zona e nell'altra non rende, o viceversa, un'antenna che quello non le serve a niente, te la provi tu. Dipende, io ho un'antenna verticale che va costruita, questo radioamatore, lui si diletta, nel senso costruisce anche le stampante 3D, me l'ha fatta tutta in stampante 3D, il balum eccetera, sembra una cosa comprata, talmente fatta bene. E se tu la piazzi, l'ha fatto il ciocco con questi sistema lì, l'ha fatta, tra l'altro la bellezza di questa antenna è che l'attacchi al muro, attaccata al muro a mezzo metro funziona, senza bisogno di sollevarla né niente, cioè è circa 10 metri, 11 metri di antenna, una canna da pesca, e il filo è messo all'esterno, non all'interno, per cui la lunghezza effettiva dell'antenna sono circa 16 metri, non è 10 metri quanto la canna da pesca. E tu vedi come funziona questa antenna, accorda, dagli 80 metri in su, tutto funziona benissimo. Naturalmente sono antenne più performanti, dedicate, però ti posso dire, io con quella accordo tutto perfettamente. C'è questa antenna, l'ha presa un tipo a fianco a lui, vicino di casa, e non riusciva a farla funzionare perché non aveva un piano di massa efficiente, gli ha fatto il lavoretto che doveva fargli e l'antenna funzionava, per dire, può capitare anche così. Ok, riprendi tu. No, io a questo qua gli ho fatto, per esempio, anche il choc da terra, gli ho fatto una misura, non è che l'ho messo così, e poi gli ho fatto un contrapeso, un cavo di contrapeso a terra di 16 metri. Senza contrapeso avevo stazionario 1,7, col contrapeso 1,1, 1,2, ma anche in 27, anche in 27 è assurdo, e l'ho messo su, l'ho fatto a un'invertita e va da terra alla punta del traliccio dove c'ho l'antenna, dove c'ho la trazione. Messo a 120 gradi, più o meno, è spostato un pochino in avanti le braccia, ma proprio si vede che sono tipo vela, ed è alla grande robe. Sì, ci credo, ma poi la propagazione delle onde elettromagnetiche, molte volte rimane a bocca aperta. Te l'ho detto altre volte, allora oggi ho collegato gli Hawaii, c'ho un'antenna che se tu la vedi sembra uno stendino, è tipo una cubica, però messa in orizzontale ci sono questi fili, ci sono quattro bracci con tutti i fili che vanno in giro e fa cinque bande. Tu quell'antenna la senti, dici, qua non si sente niente, senti i segnali 1, 2, come schiacci con quell'antenna gli spara una potenza allucinante, perché sono 4000 volt lì, da con questo volume che c'ha 9-1 all'interno, ma tu devi sentire dove arrivi con questa antenna. Infatti quella la uso quando devo fare collegamenti importanti a lunghissima distanza, Australia, cose così. Se tu devi fare collegamenti in Europa non ti ascolta nessuno, questa c'ha un coso di radiazione particolare molto basso, e riesce a fare dei collegamenti a lunghissima distanza. La verticale invece la uso per dire quando devo fare cose più brevi o altre, e poi c'ho le filari, molte volte cambia solo la tipologia nello stesso punto con due cose diverse e cambi totalmente la radiazione, lo skip molto più basso c'è la quella lì. E per dire, oggi vedevi il segnale S2, questo degli Hawaii, e lui mi ha dato 9, 5-9 di rapporto, e io ascoltavo 2, dicevo 2-3 era, cacchio, però lui mi ascoltava, e ricezione quasi non si sentiva, infatti io ascoltavo con le altre antenne, li ascoltavo forte, però con le altre antenne non riuscivo a entrare, con la filare e la verticale, come ho messo quella, tu mi ha risposto subito, 5-9, e io lo sentivo bassissimo, però lui mi ha ascoltato forte, per dire, molte volte succedono anche cose inspiegabili. Però con l'antenna in radiazione funziona che è una meraviglia, in ricezione quasi niente. Magari adesso io devo provare questa qua dopo valla in trasmissione, perché magari non c'è tanto un'altra direzionale molto direttiva e magari a Sassari non arriva, però magari spara Galera, mi segui. Ma guarda, io il rapporto lo faccio un esempio semplicissimo e banale, io faccio sempre l'esempio del tubo dell'acqua. Tu prendi un tubo dell'acqua largo 2 centimetri, lo spruzzi così e fai 10 metri, ci metti il dito sopra con la stessa quantità di pressione di acqua, però arrivo molto più lontano, cioè con la stessa portata aumento la pressione e allungo la gittata. È così questa antenna acqua particolare, tu vedi che ti restringe il coso, la quantità d'acqua che butta, però ti fa uno schizzo molto più lontano. E così è questa antenna, è molto particolare, quella va bene per le lunghissime distanze, se la metti in quella direzione di là ti spara una potenza assurda, senza avere potenza. Io sono 100 watt, non sono di quelli che utilizzano lineari, cioè, almeno per il momento ce l'ho ma non l'ho ancora utilizzato. Guai se dovessi mettere lineare, vabbè, non so se la regge la potenza, perché mi hanno detto resiste sino a 500 watt con l'antenna lì, perché è un'antenna semplicissima, costruita con elementi molto economici, con quei tubi di canaletta da 2 metri. L'unica cosa difficile da costruire, ci vuole l'attrezzatura, il balumo centrale, quello che regge tutto il corpo dell'antenna, è un corpo unico, cioè due gusci in pressofusione fatti a 3D, e lì c'è un balum con i ferriti eccetera eccetera. Quello è una cosa, diciamo, ci vuole attrezzatura, bisogna saperlo fare, ma l'ha fatto quello lì e ti posso dire quell'antenna è molto particolare, perché sembra che non riceva, ma in trasmissione guai, è una bomba. Avanti di nuovo. Sì. Il discorso della pompa si fa anche con l'impianto, si fa con gli impianti audio, si fa con gli impianti audio, anche io faccio quel discorso. Va bene, no, mi devo trovare qualcosa per questo ricevitore, qualche, e poi sì, andare in qualche frequenza debole e vedere un po' la comparazione, c'è la differenza tra una e l'altra, e poi qualcosa di serio per lì, cioè un qualcosa di negativo per la 27. Io da 27 avevo, adesso me ne ho preso, cioè avevo una, non mi ricordo se era della Nemo, che cosa era, una tre elementi, l'ho tenuta per un pochettino, era divertente perché era molto silenziosa per il QRM, e quella a distanza importante funzionava, ma in città neanche nessun vantaggio avevi. E poi ne ho un'altra quattro elementi, che quella lì ho fatto uno scambio, l'avevo sempre in sallare, poi alla fine non so se modificarla per utilizzarla per altre banche, magari 10 metri, ma sinceramente tanto in 10 metri è una cosa sporadica, ti può durare 10 minuti come 10 secondi il collegamento, per cui è una banda, non è che mi dà grosse soddisfazioni, ma la sono tenuta da lì, mi sto divertendo, ti ripeto, con la Mantova. Oggi ho collegato, la Mantova ha fatto l'Australia l'altro giorno, che sembra un'antenna scadente, eppure riesce a accordare anche su bande basse, sono rimasto a bocca aperta, non me l'aspettavo. In certe situazioni la Mantova va alla grande, una 5 ottavi, riesce a accordare anche sino ai 14 MHz, ha fatto i 21, i 30 MHz, il 29, ci arriva tranquillamente, senza nessun problema, a Mantova 1. Riprendi da lì. Questa reazione che ho io accorda tutto, ma anche in 80 metri, anche in 80 metri accorda. È una fatta scatenata, è un'antenna assurda. Io ti faccio vedere, se tu vieni qua, non far noi, noi scacciamo la portante e ci parliamo come vogliamo. Non ci sono proprio per quello. No, in HF io con la creazione non ho problemi, proprio di niente, ricevo tutto, tutto bene, e non è che ricevo per sentito dire oppure a orecchio mio, ricevo con gli stessi segnali, più o meno con gli stessi segnali dell'affilare, La guardia tu l'hai acquistata nuova o l'hai recuperata? No, io la guardia l'ho comprata. Ma l'hai presa? L'ho presa a Porto Torres. Non ho capito, scusa, l'hai acquistata da un privato o dico da un negozio? No, l'ho acquistata usata, ma aveva due o tre mesi aveva, nuova, era ancora in cellofanata, nuova. No, perché qua a Sassari non so se nessuno, non le ho mai viste, sempre da fuori le fanno arrivare. No, ma ho tutto, io mi ha dato anche la cartella con diciamo con tutte le, per come calibrarla, come per il montaggio, mi ha dato tutto. No, è un amico che l'ha presa, l'ha piazzata, poi la doveva spostare per esigenze sue, e poi non l'ha più rimontata e me l'ha venduta. Però nell'HF non ho problemi di niente, ma niente. Non l'ho mai provata, l'ho solo vista su dei video che hanno fatto delle comparazioni, ma è una buona antenna, anche quella che c'ha Claudio, che poi l'ha smontata, come si chiama quell'antenna che c'ha un elemento davanti, un direttore, come si chiama, adesso non mi viene, ricordami tu. La Game Master. No, non Game Master, niente dico, quell'antenna nuova che è una 7 ottavi, è un'antenna di 8 metri e mezzo, molto grande come dimensioni, è tipo come configurazione, come la Mantova, però davanti c'è un elemento direttore e si chiama la Baffanna Polibu. Boh, non lo so che antenna sia, non lo so. C'è anche la Grazioli 7 ottavi. Sì, l'ho vista lo stesso, sono costruite bene, sono belle antenne. Quello della Grazioli, per quanto ne so io, era uno di un parente o qualcosa di quelli che costruiva la Mantova, e poi non so come è andata a finire, si è messo a conto suo. Ha una grande antenna Grazioli. Poi ho visto quando ancora allo stato di prototipo, l'avevano fatto vedere un video tutta smontata, facendo vedere la minuteria, la muloneria eccetera, si vede che è un'antenna costruita di pregio, non è una cagatina, dai. A J-Paul, buonasera. J-Paul, ciao, chi sei? Ciao Roberto. Ciao Gavino, buonasera. Franco da Sorso, davanti a te Roberto. Ah, ciao Franco, ben sentito, mi veniva il nome, J-Paul è l'antenna, cercala, è una grande antenna, c'è un'ottima resa, anche se tutti i valori di guadagno sono tutti sballati, come la Grazioli scrivono delle cose, delle fesserie, perché neanche una direttiva ha quei valori riesce a raggiungerli, però visto che lo scrivono gli altri, loro per dire se uno scrivesse, l'altro scrive 6,5-7, dovete mettere un pochettino di più perché va leggermente meglio delle altre, però la J-Paul, io ho visto lo stesso le prove, ho anche verificato, nel senso, le persone che prima avevano la Mantova e poi provata con l'antenna lì, va leggermente meglio, un pochettino meglio della Mantova. A livello locale non te ne accorgi, però a lunghe distanze vale qualcosina di più, però c'è da dire che l'antenna come dimensioni è più grande della, per cui qualcosa e logicamente deve andare meglio. E ti rilancio a Gavino Franco, così ti saluta, vai Gavino. Ciao Franco, buonasera, ben sentito, avanti. Sì, a quanto io non ho mai avuto la J-Paul, non lo so, io ho avuto sempre, guarda, la maggior parte le Mantova, ho avuto, partito con la Mantova 1 e sono finito con la Mantova Turbo, che ce l'ho attualmente, e guarda, ti posso dire che non mi sono pentito di averla comprata, perché è una bellissima antenna, va bene in tutti i posti, in tutte le bande, diciamo, e in tutte le frequenze, e ti dico che ascolto molto meglio con questa che ho adesso, molto meglio della Mantova 1. Avanti a te, Roberto. Allora, io ho la Turbo, che ancora non è installata, ma la sono tenuta a discorso, la Mantova 1, e ti posso dire che non c'è differenza né una né l'altra, è solo una questione commerciale, come la Mantova 1 o Mantova 5, sono precisi, perché tanto le lunghezze fisiche delle antenne sono identiche, uno ti ha aumentato il numero radiale, ti ha aumentato appena teoricamente il piano di massa, una ne ha, la Turbo c'ha più radiale, la Mantova 1 ne ha 4, la Mantova 5 ne ha 5, ma a livello prestazionale non ne notiamo differenze, poi non so se ti metti a 100 km di distanza, magari uno un peluzzino di più, però parliamo in ambito di 10-20 km, abbiamo fatto le prove con due antenne montate insieme, una a fianco all'altra, non c'era nessunissima differenza. Poi se tu mi dici stai collegando il Brasile, magari quello arriva a un punto più te, quello non te lo posso dire, però in ambito di 20-30 km non c'è nessunissima differenza. Mentre la J-Paul devo dire qualcosina anche in brevi giti si nota, però come ho detto prima è un'antenna un pochettino più grande, per cui logicamente qualcosina di più ce lo dovresti avere. Riprendi Garri. Positivo. Ma adesso io volevo provare la Mantova, la grazia della 780. Appena è, me la prendo, appena è la compro. E così vediamo se ha qualcosa in più di guadagno. Sì, quella me la prendo nuova, quella la prendo e non tarderò neanche, credo, ad aprile di comprarla. Così la proviamo, così proviamo questa 780, cosa dice? Avanti Franco. Venga, ma sentendo chi l'ha comprata dice che è una bomba, dice che è una buona antenna. Ma ti dico una cosa, guarda, con questa antenna io, come ascolto con questa, anche in 40, in 80 e in altre frequenze, tutte le frequenze radioamatoriali che andate voi, ti dico che qua mi arrivano tutti dai 9, 9,20, 9,30, mi arrivano, mentre con la Mantova 1 non mi arrivavano così. Questa mi arriva, con questa mi arrivano molto più forte come segnali. E io guardo quello, poi naturalmente in trasmissione non lo so perché non l'ho mai usata in trasmissione a distanza, diciamo in bande radioamatoriali. Ha detto una cosa giusta, in bande HF sicuramente va meglio la Mantova Turbo perché è un po' più larga, come la larghezza di banda è un po' più larga, sale anche più in alto, quello niente da dire, però parliamo della banda degli 11 metri dove è costruita per lavorare su quella banda lì, ti garantisco, abbiamo fatto delle prove, ma non adesso, diversi anni fa, e devo dire una cosa, a vantaggio a favore della Mantova 1, parliamo la vecchia Mantova 1 perché come hanno costruito le successive hanno perso di qualità il materiale più scadente, l'alluminio più scadente, infatti se ne sono rotte tantissime, perché io conosco gente che ce l'ha 40 anni, montata la Mantova, montata a regolate ed è ancora dritta, altre antenne varie di 4-5 anni troncate in due, più nuove eccetera. E a livello costruttivo le vecchie Mantova erano eccellenti, poi si sono cagate sotto. La Turbo, come hai detto tu, se la utilizzi per altre cose funziona leggermente meglio, quello lo sappiamo, però in 11 metri ti garantisco le prestazioni sono, non dico identiche ma quasi, non si possono notare, almeno in ambito vicino non ce ne accorgiamo, perché abbiamo fatto, ti ripeto, un amico ne aveva due attaccate uno a fianco all'altro a un paese circa 20 km, 25 km e ha commutato uno all'altro, io non notavo nessuna differenza, lo stesso segnale identico, non avevo uno strumento da laboratorio che mi dava i decibel di intensità di cose di microvolt di intensità, un ago, semplicissimo ago del 440, io non notavo nessuna differenza. Riprendi Gavino. Sì, beh, sono prove che vanno fatte e strafatte, non ci sono dubbi. No, io ripeto, io parlo per la banda degli 11 metri, con la 780 me la prendo, la 780 me la prendo perché la voglio provare, però prendo sempre Grazioli, però questa che ho non la do, la tengo sempre montata, per come hai detto tu, per fare delle comparazioni, così vediamo veramente cosa dicono, se è vero quello che dicono. Montata, guarda Roberto, mi metto altri 6 metri di palo, 6 metri di traliccio uguale, con lo stesso cavo e non mi interessa, così si fanno veramente le comparazioni, così vediamo se è vero. Riprendi Roberto. Guarda, io sinceramente se devi spendere, io andrei su un'altra tipologia di antenna, completamente diversa, andrei su una direttiva, se c'è modo di metterci un rotore, sarebbe anche meglio, così di lì veramente le note le differenze, una la usi come monitor e poi l'altra della direzione. Naturalmente montare una antenna per la 27 per gli 11 metri ci vuole anche un rotore abbastanza importante, perché i carichi non sono bassi, sono molto, magari su una VHF puoi mettere anche un rotore di quelli semplicissimi, di quelli che utilizzavi per le antenne TV, però se ti metti un'antenna come dico io, ti manca una tra gli elementi, magari montata in verticale, non in orizzontale, e lì si creano tutte le differenze, ti giri dove devi andare e c'è un guadagno tre volte di un'antenna normale, di una verticale, e lì fa un salto di grandissima qualità, ti tieni là, quella che c'è adesso, poi ci butti 120-130 euro per un'antenna che magari è stata più usata, la paghi anche di meno, te la metti in verticale anziché in orizzontale, ti busca un rotore e stai andando alla grande. Antenna euro, beh, come stai dicendo? Ma ce ne sono tantissime, ne ho una, io ho una quattro elementi, avevo un altro elemento, però l'avevo montata in orizzontale col rotore, quei semplicissimi rotori, quelli della Stolle che hanno una specie di bussola, che ruoti, niente di importante, però non avevo il cuscinetto reggispinta, niente, si è crepato subito il coso, che puoi lasciare anche in orizzontale volendo l'antenna, però diciamo è consigliabile metterla in verticale, visto che in 27 siamo tutti in verticale, e ti posso dire, se li metti un rotore con un mast ti fa un bel impianto, e ce ne sono pochi che utilizzano le antenne, le direttive in verticale. Io gli ho dato a Danilo, quello che lavora a Macedo, gli ho dato la cubica e sta collegando tutto il mondo, lui con quell'antenna lì c'ha una resa da paura, gli metti un rotorino senza spendere tanto, si trovano anche usati, anche io l'ho preso a un prezzo ragionevole, e di lì sì che lo fa il salto. Anche una cosa del genere si può fare, anche una cosa del genere si può fare, anche con la cubica, sì, anche con la cubica. Ma il rotore, ho un amico che ne ha uno, mi va bene per cosa è bello, ma quanto mai è bello massiccio. Vediamo un po' com'è questa cosa qua, sì. La direttiva per la 27, per 11 metri, 4 elementi, e siamo alla grande. E prendi Franco. Ecco. Mettendo quella, diciamo che qualcosa cambia, cambia. Sì, è bello mettere due antenne, come stavo dicendo, due antenne uguali, una diversa dall'altra, nello stesso punto, e poi farle uscire, per vedere la differenza, e così. Così sarebbe bello, è usare sempre la stessa radio, usare con la stessa potenza. Avanti la testa. Allora, non per dire, io l'ho già fatto, questo lavoro lo sto già facendo con la, come si chiama, in banda radio amatoriale, c'ho quattro antenne diverse, quattro tipologie di antenne, c'ho la filare, la verticale, una col web, un'antenna tipo una cubica montata in orizzontale, e più c'ho la manto, ma io a seconda di quello che devo fare, per dire, devo ascoltare, vedo che il segnale è molto disturbato, commuto l'antenna, io c'ho un commutatore a 5 posizioni remoto, con un'unica calata, ci sono 5 antenne collegate, e di queste, per dire, ascolto con la filare, in modo che mi tolga tutto il QRM e veda la pulizia di segnale, anche magari il segnale lo vedi più basso, però non sento i disturbi atmosferici o altre cose, e poi quando devo trasmettere attacco l'antenna che mi dà il maggiore segnale, sparo con quella, e ho fatto delle bellissime faccio le comparazioni e poi riesco a fare dei collegamenti che magari sarebbero difficili o addirittura impossibili facendoli con quell'altra antenna. E così sto dicendo, secondo me, a Gavino, visto che è un grande appassionato, eccetera, eccetera, puntare direttamente su quell'antenna che c'è, te la lasci come riferimento. Poi, per dire, c'è la direzione, questo è un segnale che sta arrivando dalla Russia, per dire, giro la direttiva e risparo tutta la potenza, perché avere un guadagno di 3 dB, che è una cosa semplicissima, un'antenna a due elementi, se ce li ha al minimo 3 dB, se poi metti 3 elementi, 4 elementi, non ne parliamo. Con 3 dB di guadagno, cioè il doppio della potenza, è come ne stai dando, da 100 ne stai dando 200 di potenza, se c'hai 6 dB di guadagno, cioè 4 volte la potenza, per cui metti 3 elementi e c'hai 6 dB di guadagno, è utile avere i lineali, quando c'è un'antenna, poi non parliamo se metti 4 elementi che iniziamo ad arrivare a 8 dB eccetera eccetera, per cui con una stessa potenza c'hai delle rese 4, 8 volte o 10 volte maggiori. E chi è questo? Lo senti tu, Roberto? Avanti, chi è che vuole entrare? C'è c'era qualcuno sotto, però non ho capito chi era. Niente. Capì? Ma non è la Grazioli, ma la Grazioli che ha sette. Bah, adesso non mi ricordo il corso. Che è più grande, è la G-Pon. No, no, c'è anche la Grazioli 7 ottavi. Ah, c'è anche la Grazioli 7 ottavi? Oh, pensavo che era solo la G-Pon. No, no, c'è la Grazioli, c'è. Allora, la Grazioli ho fatto la mezz'onda, no? La 7 ottavi e la 5 ottavi, che è quella che c'ho io. Ah, non lo sapevo. Non lo sapevo questo. Solo che c'è la G-Pon, sì, e avevo sentito che era... Lo so, è la passione, a volte sono anche a spendere, mi capita, non è che a volte anche io quando guardo le cose mi piacciono me le prendo, però non ho altri vizi di niente, quindi fra, quando lo togliono un gusto me lo tolgo. Adesso lo però chiediamo a Franco, come mi ascolti? Come mi stai ricevendo di lì? Guarda, è una bellissima radio, chiara e diciamo pulitissima. Ok, vabbè. hai avuto ricchio buono. No, ma te l'ho detto, questa è una bella, bellissima radio, complimenti, te l'ho detto anche prima, va benissimo. Se devi tenerlo, tieni questo di microfono, da parte mia è eccellente, va benissimo. Sì, teniamo questo qua. Franco, questo qua è il microfono che stavo usando la settimana scorsa, che siamo sentiti lo stesso a quest'ora. Quello del B4, come ti ho detto, avevo messo gli Shure, che avevo fatto, messo gli Shure nel 2009, ti ricordi? Sì, come dire, stiamo usando quello, dove, con quale radio lo stai usando? Con 450, che ho fatto le connessioni, lo sto usando 450 adesso. Aspetta, è bellissimo. Guarda, è veramente bella la modulazione. Non dà quel senso di distorto, vero? No, siamo vicini noi, eppure è proprio pulita. Vabbè, io da Franco sarò 3 km in linea d'aria, se ci sono pure. Sto dicendo anche l'intensità microfonica, tu quando stavi sollevando era un pochettino, stavi strappando, quando sei arrivata a 7, oltre 7 non andava bene, la messa a 6 è perfetta, puoi anche avvicinarti al microfono e va benissimo, non strappa. Poi tornando a lui, visto che sei stato gentile e sei appassionato dei microfoni, proprio l'altro giorno mi hanno dato uno, cioè vedete quei microfoni con la testa, quelli che usavano nei supermercati, che hanno la molla, ce l'hai presente, Gabi? RCF sono, quelli sono belli i microfoni, quello chiedilo, guarda, quel microfono lì è perché, diciamo, le commesse sì, sono, devono comunicare, però non hanno, diciamo, la cortezza, la passione di prendere e di uscire bene in radio, quindi non hanno certi particolari. Però è capitato di sentire quel microfono, perché noi abbiamo installato anche in qualche locale, in qualche negozio, e di installare diciamo la sua radio, il suo apparecchio con quel microfono lì. Quel microfono è stato progettato per lavorare a un'altezza di 80 cm, era una distanza complessiva di braccio. Allora, in pratica tu ti metti dritto, giri la capsula, deve essere parallela alla tua bocca, lunghezza del braccio, schiacci la forza, perché anche con lui va importante, schiacci diciamo il play, quel microfono è spettacolare, a un metro fa così, Perfetto, siete cristallino. Allora, quello lì io ce l'ho, me l'ha dato un amico, me l'ha regalato e me lo tengo ben conto. E c'ha la base sua in alluminio, lo usavano molte volte in chiesa all'epoca, però quello che ti voglio dare a te non c'ha niente a che vedere con quello, è un'altra tipologia, però c'ha una molla più sottile ed è un Philips e c'ha il PTT e il lock, è abbastanza largo come microfono, c'è presente un MC60 di profondità come l'MC60, però è due volte e mezzo l'MC60 bianco della Philips. E questo qua, visto che è già cablato e tutto quanto, magari se ti vuoi mettere le cose su, ti usi quel piano col tasto che c'è il PTT e il lock, visto che stiamo utilizzando questi microfoni da studio, ed eviti di mettere l'MBQ+4. Quando ci capita di vederti, c'è da parte e quello è già dedicato a te, dai, visto che sei stato gentile per quei radiali, Gabri. Grazie, ma non c'è bisogno, Robè, non ti preoccupare. Io te li ho dati perché mi faceva piacere e niente. E quei microfoni sono speciali, e quegli RCF, come RCFI, sono speciali perché non li sanno usare, però se loro ascoltano, quando c'è il tecnico qui in sala, sono bombe, belli, quello tienitelo conto, quello lì non lo dare perché non ne trovi di quei microfoni lì in giro. Io oggi sono fantasato, avanti Franco, scusate. Capo, microfoni erano belli, anche quelli che dove lavoravo io, che usavano loro per comunicare, chiamare i portatili oppure la gente. Caspita, quelli erano belli, sono microfoni americani. Non sono riuscito a buscarne uno, non sono riuscito. Pazienza. Poi Gavi, a proposito, cani, ma quelli dell'auto industriale erano fra? Sì, a quelli dell'auto industriale. Allora, io non prometto niente perché non ha promesso, ogni promessa è un debito, quindi non prometto niente. Però forse qualcuno si riesce a reperire di quello, però nessuna promessa, perché quando si fanno le promesse è un debito. Però io non ti ho detto niente, adesso vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa. Capo, no, io ci ho lavorato 40 anni lì, ci ho provato in tutte le maniere, addirittura quando sono venuto a cambiarli, meglio li hanno buttati, ma non ne hanno dato neanche uno, non ne hanno dato, pazienza, infatti ho detto va bene così, nulla di particolare, avanti a te, vabbè. Poi Gavi, parlando di direttive, io ce l'ho la 4 elementi, se magari, tanto io non la sto usando, ci mettiamo d'accordo se c'è qualcosa che potrebbe interessarmi, facciamo a scambio, tanto per tenerla ferma così sicuramente rimarrà chissà quanti anni, eventualmente quando ci troveremo ci vediamo, te la faccio vedere Mari, e se c'è qualcosa che mi può interessare ci mettiamo d'accordo, come io, vedere non mi piace, io faccio sempre scambio, ho qualcosa che direi che mi fa piacere a qualcuno darla, la regalo, non so, tipo da approfittarne di nessuno, sono di quelli che fanno sempre fatto scambi, non mi piace vendere la roba, non sono commerciante e basta, te la metto da parte, eventualmente te la provi, vediamo e poi se ti vuoi divertire, però ti ripeto, bisogna organizzare un rottore, se no la tieni ferma e tutto quello che devi fare lo perdi, perché quella lì vuole direzionare, è una 4 elementi, non ti vorrei dire fesserie, mi sembra che se c'ha o 7 o 8 dB di guadagno, probabilmente intorno ai 7 dB, però sono tanti, è tanto rispetto a una mantova che dichiarano 6 dB, però sono fesserie, la mantova guadagna intorno al dB, 1 dB e 3 di coso, per cui stiamo parlando di caramelle rispetto a quello che può avere una direttiva. Ok, riprendi la vita. Io grazie Roberto. No, già ma vediamo un po' di fare qualcosa. Non ci sono problemi. Franco, no, io conosco una persona che potrebbe avere qualcosa di quella roba lì, però è da un po' che non lo vedo, ma lo vedo qua di fermi sempre da un po' che dai, non ci fermi, ma ci conosciamo sempre. Però provo a chiedere, quando lo vedo glielo chiedo, quando lo vedo glielo chiedo senza problemi, lo sa che io non sono problemi. Avanti fra. Pagati, non è importante, intanto per quello che entro io a parlare va bene così, anche non è quello il problema. Il gruppo di Galeon non è che non ti impegnare, non ti preoccupare. E niente, temi. Comunque il salario uso questo, l'altro uso le MC60 e va benissimo. No, senza impegni, infatti ti ho detto, mi promessi un debito, e io non so se io debiti, cioè di promessa bisogna mantenerla, io non ti ho detto niente. Adesso vediamo, quando lo trovo, magari provo a titolo informativo, mi capito, senza alcun problema. Lo prendi, Robert. Ma non ho capito, che tipologia di microfono state parlando, quelli tipo supermercato o che microfono? Dai, tra. No, questo è fatto... è tutto piatto, è fatto da dove parli, da dove c'è il microfono, sino a dove c'è il PTT, tutto piatto. È un microfono americano, ma sono belli, li usano per la radio della zona industriale, penso che lo usino in tanti punti questo. E ti dico che chiamano i portatili da lì, chiamano dalla base, dalla sala controllo, chiamano con quello, ma è bellissimo. Ma c'ha il PTT e il lock oppure c'ha l'interruttore? No, c'ha il PTT, è bellissimo, e se vai a comprarlo costa anche un po' di soldi. Perché io allora, microfono ne avrò una trentina, forse anche di più, di tutte le tipologie, e me ne aveva regalato uno mio zio, che è tipo, cosa posso dire, tipo, c'è presente un rubinetto del lavandino, una cosa del genere che sale così, parte, è un tipo una cosa quadrata che si gira e viene verso la direzione della CTE, ma degli anni 70 è questo. Non so se c'è una tipologia di microfono del genere americano. Ehi, cavallo, ce n'è della CTE, ce n'è della Motorola, ce n'è di un'altra marca che adesso non mi ricordo, l'altra marca. Se capita, entro su internet e riesco a ottenerli in fotografia. Capita. Ma ce l'ho dalla SBE, che sono bellissimi quei microfoni, tutti neri con il tasti, il PTT e il lock in alluminio anodizzato, bellissimo come morbidezza, perché l'MC60 è un grande microfono, però io non lo posso vedere per la durezza del PTT, lo vedo troppo da me, mi piace che lo tocchi appena tipo l'MC85, l'MC80, che io tra cosa è quello, MC50, che era leggero. L'errore che hanno fatto è troppo duro questo PTT dell'MC60 ed è un po' scomodo. Ma vabbè, io ce l'ho e ti dico che è morbidissimo, come lo tocco, come ci appoggio la mano si aggancia ed è morbidissimo. Poi non lo so, probabilmente vogliono lubrificarli. No, allora, non duro nel senso che sia fastidioso, però io ne ho due di MC60, ce l'ho uno a fianco all'altro perché uno qua e uno sull'altra radio, però se tu vedi il microfono, l'MC50 o l'MC, no, neanche no, l'MC85 no, è diverso, il microfono, l'MC50, che ce l'ha bello largo il tasto, proprio metti bene le dita, perché l'MC60 è stretto, è largo, questo qua è il contrario, è bello largo, come si chiama, bello profondo, ci metti bene il dito, è proprio un bilancino. Questo MC60 funziona orizzontale e secondo me non è il sistema migliore per farlo, mentre quello lì funziona a bilancino leggero, tac, ed è bellissimo, comodissimo. Non dico che sia duro l'MC60, però secondo me è studiato male, dovevano farlo più lungo anziché stretto, l'hanno fatto stretto e largo di cosa, come di disposizione, ma nell'altro senso invece era lungo, metti il dito bene, lo allunghi bene, ce l'appoggi bene col polpastrello, per quello sto dicendo, non che sia duro, però a me piace che lo tocchi appena leggero, senza fare troppo forza sul dito. Capa, quello c'hai ragione, che è un po' molto stretto dove appoggi il dito, quello c'hai ragione, quello poi magari ti piacerebbe averlo come l'MPG5, l'MPG4. Quel sistema lì dice tipo il Tanner, che ce l'hanno bello largo, che lavora anche meglio, perché questo tu l'hai aperto un MC60, c'è il pirulino al centro, il pulsante chiamiamolo, quella dove schiacci il PTT è rettangolare, se ne tu lì quello c'è un coso piccolino, dove c'è il pulsante che commuta la trasmissione. E, diciamo, secondo me è sbagliato, potevano fare anche molto meglio. Vai Gabi, riprendi. Sì. Poi un altro microfono bello, un'altra bella componentista, che avevo notato anche in certi modelli di Paso, i Paso sono fatti bene e sono anche una bella timbrica come microfono. Ci sono alcuni modelli, diciamo, come tutte le cose, che sono commerciali, però sono dei modelli della Paso che hanno fatto, per degli studi televisivi, parlo dell'epoca, però che hanno delle belle capsule, componentistica ottima. Ne hai provati tu robe quelli Paso? Sì, ne ho uno Paso, io ho addirittura due amplificatori della Paso, quelli diciamo non hi-fi, parliamo per fare rumore, che si usavano negli stadi, e molti li usavano anche con le trombe, come si chiama? Ad alta impedenza, col trasformatore, c'è presente, che usavano con i Gerati, la Rottino, con le trombe di Paso, non parliamo di alta fedeltà, ne ho due di quegli amplificatori. E poi non so se, parlando di casse, non so se tu le hai conosciute, penso le facciano ancora, era la serie professionale della Pioneer, la Toa, le conosci? Della Toa avevo le trombe, avevo dei driver che erano 5 pollici, la membrana era 5 pollici, 270 watt RMS 16 ohm, i driver, le trombe, le altre frequenze. Poi avevo i neri da 15 pollici, sempre della Toa, che erano intorno ai 300 watt RMS, poi dei coni da 18 pollici Toa, quindi erano 1200 watt RMS e 4 ohm. Poi ti dico anche un'altra cosa, l'outline, la serie, quando ha fatto la serie di diffusori, se ti dico anche il nome, il Formula Attack, aveva la tromba, aveva il driver, era 6 pollici, fatto un driver da 6 pollici Toa, e costava il driver originale outline, perché te lo dico per certo, perché io poi l'ho cambiato a un cliente, costava 1.600.000 lire il driver, il medio costava 2.400.000 lire, il medio da 12 pollici della Toa. Robe. No, ce li ho io, sono due diffusori, li usavamo quando facevamo delle manifestazioni e cose del genere, collegati a questi amplificatori, questi per uso, diciamo, non hi-fi, però cavolo, toccano forte con le casse. Io pensavo fosse un marchietto così economico, invece mi sono informato, ne ho visto un amico che lui le conosceva, poi mi sono guardato un po' di cose specializzate. Toa è il marchio professionale della Pioneer, adesso non so se esiste ancora, sicuramente non lo so, però erano dei prodotti di altissimo pregio quando sono usciti. Io ce li ho 30 anni queste cose, vabbè 30 no, ma 25 anni ce li ho, questi diffusori professionali della a due vie, sono la tromba, medio acuti e medi, e poi c'è il woofer sotto. Io già lo conosco molto bene. Toa ha fornito anche per un periodo, si trovavano componentistica nella GBL anche Toa, scusa non GBL, nella Cevinvega a volte forniva driver Toa, veniva fornita dalla Toa, per esempio le vecchie GBL, le 15V4 avevano il driver della Toa, poi la Toa forniva Pioneer, la Toa saluto io anche il recusente, ma non lo c'avevano i componenti, la componentificatoa. Ho detto, l'UVTOA è un'ottima casa conduttrice, caspita, ci sono delle file di fusioni, toa ti tiravano in testa. Ci sono delle file di fusioni dalla toa che fanno paura. Cappa, avanti Franco. Ehi capo, dai, io entro, grazie del microfono e vi saluto perché non ti avevo troppo sentito questo, dai. Poi dopo anche. Ci sentiamo le prossime, buon proseguo, buon tutto, mi ha fatto piacere di sentirvi e fare quattro chiacchiere. Avanti a te Gavino e poi fai girare, io faccio un QRT. Sì, grazie Fra per essere entrato, è stato un piacere, lo sai. Quando ci senti vuoi entrare, non c'è problema, siamo qua, altrimenti ti affaccia la finestra, mi tiri una pietra e mi dice accendere la radio. Fra, io. Va bene, dai, buonanotte, buon tutto per domani, dai, ti passo, ti giro a Roberto per i saluti. Ciao Franco, uno con la parte mia. Ciao Franco, mi sentito, anche io chiudo, dai, che già, sto guardando la radio, sono le 23:08, anche io domani, si alza presto. Ok, saluto a entrambi, ciao Gavino, come al solito un piacere, idem per Franco, fare belle chiacchierate, soprattutto sono argomenti che ci piacciono, dai. Poi avremo di sentirci in presenza, magari sarà anche meglio per fare qualcosa, magari di farti vedere qualcosa, magari sia la stazione mia, magari vedere altre cose che ti potrebbero interessare. Saluto anche gli eventuali amici qua su canale 10 in ascolto. Io vado in QRT, ciao Gavino e ciao Franco, buon tutto, buonanotte, a presto, ciao. Sì, ciao Roberto. Dai, ci sentiamo alle prossime, buonanotte. Ok, ciao, buonanotte a tutti.